Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. La pioggia di questi giorni gonfia i corsi d'acqua con tutte le conseguenze nefaste che i notiziari ci raccontano. D'altro canto, tra pochi giorni torneremo a lamentarci del livello di polveri sottili e altri inquinanti presenti nell'aria contro i quali la pioggia rappresenta ancora oggi l'unico rimedio efficace. Ebbene, in queste nelle prossime due puntate ci occuperemo del tema delle polveri sottili, concentrandoci, come sempre facciamo in questa trasmissione, sulle possibili soluzioni. E fra tutte le pompe di calore elettriche, in quanto a emissioni zero, sono senza dubbio le più efficaci. Una novità in questo settore è rappresentato da Tina, una famiglia di pompe di calore che è stata sviluppata a partire da una serie di brevetti di cui vi avevamo parlato qualche anno fa, messi a punto al Parco Scientifico Tecnologico di Trieste. Da quei brevetti è nata una startup che si chiama Theon e che oggi è impegnata a portare Tina sul mercato. Ho intervistato l'amministratore delegato di Theon, Ferdinando Pozzani, sentite com'è andata. Allora, le nostre pompe di calore sono idrotermiche e hanno la caratteristica di arrivare ad alte temperature, arrivano e superano gli 80 gradi e lo fanno attraverso un doppio ciclo termodinamico a cascata con delle altissime efficienze. Ecco, idrotermico che vuol dire? Idrotermico significa che il liquido vettore dal quale noi estraiamo il calore è l'acqua, quindi noi attingiamo alla prima falda, quella per intenderci non potabile, oppure a dei bacini di acqua presenti come laghi, fiumi o anche il mare. Ecco, quali sono i livelli, diciamo, di efficientamento che riuscite a ottenere nell'ipotesi di sostituire una caldaia tradizionale a condensazione magari, ma insomma con una di queste macchine? Perché ricordiamo che la caratteristica è proprio il fatto che si mantiene tutto il resto invariato, cioè si fa andare il sistema con i buoni vecchi caloriferi, quelli che ci sono già dappertutto. Rispetto a delle caldaie tradizionali a metano, per intenderci, l'ordine di grandezza del risparmio e dell'efficienza che portiamo è di circa il 40%. Poi ovviamente sale nel caso del gas, gasolio o del GPL. Ecco, in quali aree avete immaginato? Ecco, abbiamo detto che è molto importante che ci sia dell'acqua, cioè queste grandi prestazioni, la capacità di utilizzare la pompa di calore associata ai caloriferi viene dal fatto che voi avete sotto mano una fonte di acqua. Diciamo così. Sì, quindi sì, dovete andare dove c'è l'acqua. Avete fatto qualche valutazione? Sì, guardi, parlando dell'Italia, l'area del centro-nord presenta degli acquiferi abbondanti e spesso si trovano anche molto affioranti, penso alle città di Milano, ma anche alle città dove abbiamo il problema Torino. Che c'è l'acqua che ci invade le metropolitane, esatto, no? Addirittura, certo. Esatto, esatto. In altri contesti, specie quando si è in altitudine, potrebbe essere più problematico trovarla a profondità dell'ordine dei 20, 30, 40 metri, quindi va fatta un'analisi preliminare sulla base delle mappe idrogeologiche e comunque in ogni caso va verificato che non vi siano dei vincoli di altro tipo, certo, di, altro tipo, certo, esatto. Di tutela delle acque in particolare. Esattamente, esattamente. Noi da questo punto di vista ci tengo a sottolineare il fatto che l'acqua che preleviamo la restituiamo senza modificarne alcuna caratteristica chimica e organolettica. Solo un po' la temperatura, giusto? Sì, la restituiamo un po' più fredda, sì. Qual è il problema che volete risolvere, che pensate di poter risolvere con questa tecnologia? Allora, oggi se guardiamo al mercato, diciamo, delle centrali termiche, quindi delle caldaie, delle pompe di calore, l'85% è fatto dal mercato della sostituzione. Considerando che il costruito in Italia per il 50% è stato fatto prima del 76, si parliamo nella gran parte dei casi di edifici che hanno radiatori, che hanno i vecchi termosifoni a ghisa, i caloriferi. Ecco, su quelli le pompe di calore tradizionali, quelle che vanno a 35, 40, 45 gradi, non sono adeguate. Allora l'unica alternativa a mettere una, diciamo, centrale termica che sia a gas, una caldaia a gas o altro, è quella della pompa di calore, una pompa di calore che possa andare a queste temperature e che poi, se vogliamo uscire dall'edilizia residenziale e entrare in contesti come circoli sportivi, in contesti promiscui, alberghi, ospedali, visto l'80 gradi che raggiungiamo, possiamo fare anche cicli antilegionella senza bisogno di ricorrere a shock termici. Comunque, insomma, il tema è come aggredire quel mondo di riqualificazioni di vecchi edifici dove ci sono caloriferi in cui finora le tecnologie di pompa, esatto, di calore tradizionale non, esatto, sono sono state una risposta sostanzialmente. Esatto, questo è il nostro punto di partenza. Noi indirizziamo il mercato della sostituzione, quindi l'idea è quella di sostituire le caldaie senza dover fare degli impianti a pavimento o rottamare i vecchi radiatori. Da dove arriva la tecnologia? Una storia che, insomma, una storia anche a lieto fine, si direbbe, insomma, perché è un'idea che parte in Italia e che voi state anche sviluppando. È vero, sì, questa è una domanda con la quale un po' si meravigliano i nostri interlocutori, perché la tecnologia è tutta italiana, è il frutto di una ricerca pluriennale che è stata condotta presso l'Area Science Park di Trieste. La persona in capo allo sviluppo e all'industrializzazione è parte del nostro team, lui si occupa della parte tecnologica di industrializzazione, quindi abbiamo tutte le competenze in casa. Va bene, grazie Ferdinando Pozzani e in bocca al lupo. Grazie a tutti voi, grazie. Torniamo in studio per salutarci, per darci appuntamento a domani. Vi lascio a Effetto Notte.